Sabato al Festival Logos, durante la presentazione del libro Lettere dalla Catalogna, all'interno del quale c'è appunto un'intervista alla qui presente filosofa basca. Puoi confermare, sei filosofa? Lo puoi dire? Sì, confermo. Bene, e allora noi ti utilizziamo oggi in qualche modo per spiegarci un po' quello che è successo e sta succedendo nel Paese Basco e nello Stato spagnolo. Io direi di cominciare da quello che diceva Giovanni, ovvero sia il tuo essere una filosofa femminista e di occuparti di questi problemi. Nel corso degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, se non capisci qualcosa diccelo, te lo traduciamo subito. E ci è capitato molto spesso di parlare sia delle mobilitazioni, dei cortei, delle donne che hanno avuto luogo nello Stato spagnolo, sia anche, però con più difficoltà, diciamo, del dibattito teorico, politico e intellettuale che c'era dietro queste mobilitazioni e manifestazioni. Ecco, ti chiederemmo di farci un po' una sintesi di quello che avviene all'interno del movimento femminista basco e spagnolo, e come questo movimento in qualche modo si interseca e dialoga con gli altri movimenti sociali. Bien, bueno, por un lado hay que diferenciar entre el movimiento estatal español y luego el movimiento feminista vasco, y por otro lado el catalán. En lo que refiere al Estado español, es verdad que como estamos en una ola feminista internacional, pues se han reorganizado. Ahora bien, debido a los conflictos, entre comillas, nacionales que se dan dentro del Estado español, la relación, por un lado, entre el movimiento feminista vasco y catalán con el estatal no es homogéneo, porque se cruza el eje del proceso independentista y el eje territorial nacional. Certo. ¿Qué dice? ¿Es comprensible? Cerchiamo di tradurre un po'. Sì, non siamo tutti. Diciamo che quando si parla di femminismo o di femminismi in Spagna, intanto è utile fare un piccolo primo chiarimento, e quindi parlare sia del movimento a livello statale che di quello a livello più territoriale, perché chiaramente all'interno della Spagna e questi due ambiti non sempre si intersecano in modo omogeneo. La questione indipendentista attraversa le mobilitazioni femministe nei territori del País Vasco o della Catalogna, chiaramente in modo diverso rispetto a quanto non faccia nel quadro più complessivo dello Stato spagnolo. Entonces, teniendo ese eje en cuenta, la relación hoy en día que hay entre el movimiento feminista, ya sea vasco, ya sea catalán, con el resto de movimientos sociales, sobre todo dentro del ámbito también catalán y vasco, y algunos otros movimientos del Estado español, como por ejemplo Andalucía, secciones de Madrid, etcétera, es más intenso de lo que era hace unos años. Como digo, entre otras cosas, porque lo que está sucediendo en Europa, en diferentes países, tiene causas comunes muchas veces. Es decir, las demandas que están surgiendo a lo largo de Europa, no solo con el Brexit o con el referéndum catalán, incluso en Italia también tenéis, es verdad que aquí es bastante de derechas ese movimiento por ahora, etcétera, pero lo que quiero decir es que las relaciones entre los movimientos sociales, por lo menos allí, en el País Vasco y en Cataluña, se han reforzado porque se ve que el malestar que está surgiendo tiene relación con la pérdida de poder de la población. Por tanto, los discursos que relacionan más democracia con más autogobierno y, por tanto, independencia, digamos que se han cohesionado más durante los últimos años. Intanto c'è da dire subito che nei territori, tanto quello catalano come quello basco, le fratture che si sono prodotte in questi ultimi periodi rispetto alla questione del rapporto con l'Unione Europea e con tutte le richieste di maggiore democrazia che proprio insomma l'organizzazione europea in qualche modo nega, hanno sicuramente enormemente aiutato i movimenti sociali a ritrovare nuovo vigore e nuovo slancio rispetto agli anni passati, a diciamo ricostruire in qualche modo la loro presenza. E chiaramente la questione dell'indipendenza è diventata una enorme opportunità di mobilitazione e di crescita di questi movimenti. Senti, una delle critiche che si fa. Però posso, scusa, certo. Se ti interrompo. Però una cosa che invece mi rimane meno chiara è invece rispetto alle mobilitazioni nel resto dello Stato spagnolo, che comunque, almeno in termini, come dire, di movimento femminista, sono state molto ampie, no? Nonostante non ci fosse diciamo l'asse indipendentista a vertebrarle in qualche modo, no? Vengono sicuramente da una richiesta diversa o in qualche modo sovrapponibile a quella che costruisce il movimento anche femminista nei territori di Catalogna e País Basco. Las relaciones no son del todo fáciles con este tema, porque lo que digo es que es verdad que si bien, por ejemplo, el movimiento parte del movimiento feminista andaluz, Murcia, parte en Madrid, tienen tradicionalmente relación con los movimientos sociales y, por tanto, el movimiento feminista catalán y vasco, en general, la mayoría del movimiento feminista en España es anti-independentista. En general, es verdad que probablemente estos años van a ir cambiando quizás las cosas, pero hasta ahora, y por eso hay enfado. Quindi, allora, ti interrompo solo perché no, per tanto tu poi invece capisci più o meno quello che diciamo in italiano, questo facilita. Quindi, nonostante tradizionalmente i rapporti fra i movimenti sociali nel quadro dello Stato spagnolo fossero molto forti con tra i movimenti sociali, diciamo, in ambito territoriale spagnolo e i movimenti sociali in ambito territoriale, sia basco che catalano, anche sulla questione dei femminismi, no? Era Murcia e Madrid. Murcia e Madrid in particolare, no, non cioè, perché poi anzi, con Murcia e Madrid ci sono delle relazioni, non dei marziani, ma dei murciani, sì. All'ascolto, non si offendano se non ho citato. Un esempio lo di Murcia, un esempio. Per già che non hai usato Huesca, perché potrebbe... quindi, no? È vero, almeno mi sembra di capire, che c'è una certa consapevolezza che il tema dell'indipendentismo ha creato una distanza tra il movimento femminista, diciamo, nel quadro, almeno per il momento. Sì, sì, sì, per il momento è abbastanza strutturale. Perché secondo te? Porque hablábamos el otro día, el sábado, ¿no? Claro, la construcción nacional, la identidad española, tal y como se ha construido, nunca ha permitido, digamos, que otras naciones tengan la misma importancia que la nación española. Entonces, a los movimientos sociales en general del Estado, no quiero decir todos, porque ya sabéis vosotros también que tradicionalmente ha habido muchos apoyos, etcétera, pero tradicionalmente no se ve con buenos ojos el proceso de independencia, ya sea catalán, ya sea vasco, etcétera. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, la desaparición de ETA en el País Vasco ha llevado a un acercamiento histórico entre los diferentes feminismos, ¿no? Cosa que en Cataluña está pasando a otro nivel, ¿no? Pues porque en cuanto se relaciona el proceso de independencia con falta de democracia, bueno, hay gente que en los movimientos sociales se acerca. En general, hay un rechazo. Hay un rechazo absoluto, y las últimas movilizaciones feministas, incluido la huelga del 8 de marzo, incluido el tema de la manada, un montón, ha habido problemas entre los movimientos feministas vascos, por ejemplo, y el estatal. Okay. Porque no respetan, y esto hay que decirlo, no respetan el movimiento autónomo vasco o catalán. Es decir, ellos se creen que Madrid es la que tiene que coordinar, ¿no?, el movimiento feminista a nivel estatal, y no que cada uno sea autónomo. Y ese es un gran problema. Claro. diciamo, ci sono sempre stati, qui abbiamo parlato a lungo, dei grossi problemi per quanto riguarda la primazia all'interno dello Stato spagnolo fra i diversi movimenti sociali. Sono cambiate molte le cose con prima il cessate il fuoco e poi la scomparsa definitiva di ETA, che in qualche modo ha facilitato i rapporti. C'è tutta la vicenda del indipendentismo catalano, interpretato come una mancanza di democrazia per tutti, però continuano ad esserci delle, se non delle tensioni, delle frizioni. In particolar modo Iule segnalava la questione della manada, che si ricorderanno i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Dicevo, forse vale la pena, lo stupro di massa avvenuto durante le San Ferminas di Pamplona del 2016. E insomma, anche diciamo a livello alternativo hai un problema di relazione entre Madrid e lo demás. Sì, a livello di movimenti sociali non il federalismo è di là da venire. No, non so se il federalismo è lontano dal, diciamo, come orizzonte, ecco, anche culturale all'interno dei movimenti sociali, però insistiamo un po' su questo tema perché veramente secondo me è molto interessante, diciamo, quello che appunto lega o rende difficile comprendere, come tu dicevi sabato alla presentazione del libro, una donna basca possa sentirsi tranquillamente a suo agio con se stessa dichiarandosi contemporaneamente indipendentista, femminista, socialista, senza diciamo dover necessariamente sopportare sempre quello sguardo un po' no, quella strizzata d'occhio di dell'interlocutore, che rimane sempre un po' sorpreso, no? Però questa difficoltà e questa sorpresa continua a essere molto forte, molto spesso, anche all'interno dello Stato spagnolo. Allora, visto che prima tu dicevi che i movimenti femministi territoriali, per chiamarli in qualche modo, sono stati anche un punto di riferimento, no? In passato, per altre zone dello Stato, per altri collettivi di altre provenienze geografiche all'interno dello Stato, se non riferimenti, come dire, proprio totali, però comunque interlocutori importanti con i quali verificare, insomma, no, scambiare pratiche, opinioni rispetto alla fase. Allora, no, mi chiedo, che succede? Cioè, vista dal punto di vista, secondo te, no? Ti chiedo di fare anche un po' un gioco, uno sforzo di metterti nei panni, ecco, no? Di una compagna dello Stato spagnolo, al di là, come dire, cioè, che succede? È possibile che si pensi che improvvisamente le donne basche e catalane siano completamente impazzite e diciamo, si dichiarino tranquillamente indipendentiste e femministe, e che dall'altra parte questo processo si è visto come una sorta di follia collettiva e non come un processo da effettivamente capire, comprendere con maggiore attenzione? Cioè, che cosa veramente blocca questo passaggio? Io credo che la base di questo problema è generale, es decir, il problema che hay para entender, no solo desde el Estado español, también para cierta gente que vive en el País Vasco o en Cataluña, que se siente española. Claro, lo que decíamos el otro día, ¿no? Vosotros dos también decíais, ellas relacionan en general el Estado con la universalidad, ¿no? Es decir, tienen un pensamiento cosmopolita bastante liberal, en donde para ellas, por un lado, por supuesto, no tienen cultura política multinacional, pero por otro lado, su discurso es que los estados tienen que desaparecer y no crearse nuevos estados. Eso está muy metido en la gente de los movimientos sociales españoles. Sí, estatales. Questa visione, aspetta che ti interrompo, che è lo che, sí. Tanto per cominciare, Iule, diciamo, punta di nuovo il dito, come insomma ha più volte anche scritto, su questa cornice cosmopolita e universalista, che permea ancora fortissimamente in qualche modo la cornice, no, del riferimento anche culturale di buona parte dei movimenti nel quadro dello Stato spagnolo, questa visione cosmopolita per cui non si riesce a capire che la costruzione di un nuovo stato, cioè per i femminismi e comunque molta parte del movimento spagnolo, l'indipendentismo corre il rischio di creare un nuovo stato, e questo è letto prevalentemente come un processo negativo e non positivo. Eso es. Es decir, quiero recalcar que hay una visión imperialista, bueno, colonialista, depende cómo se llame, es decir, en qué corriente nos pongamos, en esa visión, porque obviamente esa visión implica la división entre el nacionalismo cívico, que es el español para ellas, y el nacionalismo primitivo y exclusivo, que es en el que siguen creyendo que estamos tanto las catalanas como las vascas. Es decir, para ellas, por eso digo que hay una especie de colonialismo simbólico, no solo, ¿no?, material, sino simbólico, en donde ellas y ellos en España se creen lo cívico, se creen que representan los valores universales, mientras que la gente vasca y la catalana, mucho más, si quieren crear un Estado, representan una especie de vuelta a lo primitivo. Y claro, dentro de esta ideología es la ideología imperial francesa, jacobina, ¿no?, de la creación del Estado moderno, y nos podríamos ir hasta Napoleón. Sì, diciamo, c'è la consueta separazione fra due nazionalisti, due nazionalismi, uno considerato positivo e l'altro negativo, che riprende le mosse chiaramente da quello che è il modello giacobino, poi della rivoluzione francese del 1789, fra una separazione fra quello che avviene nella periferia e quello che avviene al centro. Quello che mi domando e ti domando è come, diciamo, da un punto di vista radicale e antagonista si possa in qualche modo giustificare questa dicotomia, no? Tu hai parlato di imperialismo. Come si fa a dire da sinistra che ci sono degli imperialismi buoni e degli altri imperialismi cattivi? Ecco, come lo si giustifica anche a livello filosofico, intellettuale? Claro, a ver, más que imperialismo bueno o malo, es verdad que, bueno, todos sabemos, por ejemplo, Roma, el imperio romano. Lo era más bueno que hay. Era un imperio, pero trajo ciertas cosas. Quiero decir, eso es así. Digo, porque esta discusión está también con el feminismo islámico y con un montón de cosas de qué es occidental, qué es imperialista y qué no, ¿no? Entonces, dejando claro que es un debate complejo, ¿no? Y es decir, que hay veces que te dominan, pero hay dominaciones que no te traen nada y hay otras dominaciones que sí, es histórico, ¿no? Por mucho que estemos en contra de la dominación. El problema principal, yo creo, en este momento, del Estado español, que es un Estado fallido no solo económicamente, sino democráticamente, es que hasta que la izquierda y los movimientos sociales no entiendan que si no apoyan los procesos independentistas o los procesos de soberanía que se están dando en España, España no se va a poder democratizar. Y por eso digo que el pensamiento de izquierda del Estado español, como de muchos estados europeos, probablemente también en Italia, es imperialista en el sentido de que cree que hay naciones o comunidades políticas que tienen que ser subyugadas o dominadas por una comunidad mejor, más universal, más cívica. Y ese pensamiento está en la izquierda y es parte o causa de la crisis de la izquierda. Sì, diciamo che il tema è molto complesso e andrebbe dibattuto a lungo. Iure citava, per dire, il femminismo islamico, su cui potremmo andare avanti per ore ed ore. E c'è una questione di mancato riconoscimento da parte di quella che potremmo definire la sinistra statale o nazionale di quello che avviene a livello locale, in particolar modo per quel che concerne la Spagna e lo Stato spagnolo, dove se non si riconosce il fatto che la Spagna è uno Stato fallito e non si riconosce se non l'indipendentismo, almeno la legittimità dei progetti di sovranità nazionale e di autodeterminazione, sarà difficile riuscire ad avere un dialogo con questo tipo di settori. E a questo punto però ti chiedo, è ancora presente la critica che ha fatto spesso e continua a fare tanta sinistra tradizionale, anche marxista, sul fatto che il femminismo o i processi di autodeterminazione non sono altro che un fattore divisivo della classe, per usare più i classici temi standard che vengono utilizzati. Ecco, di fronte a questi commenti, quali sono i ragionamenti che tu e che altri come voi avete portato avanti? Para nosotros el pensamiento de que digamos lo nacional o el feminismo, etcétera, o los derechos del LGTBI rompen la clase, es un discurso misógino, patriarcal. O sea, ni marxista ni no marxista. Es un discurso patriarcal y misógino. Entre otras cosas porque Marx probablemente en este siglo